cosa, non mi ricordo il nome di più. La stessa un vero ombro, Luca ce l'ha conosciuta. Se guardo. Non fa facendo 100 metri. E ti dico, tu. Grazie, è quello bucato, ma io per me non c'è da cambiare la roba. L'ho fatto con un aspetto, scendo io, vabbè, tiro un po' più messo a guardare, ci fa la cazzo di come sta fuori. Io non abbiamo bucato, dove è il rumore? Non lo so, non ne ho partite. Fai gli occhi, tu, cazzo, di tu, qualcosa lo abbiamo rotto, ma non abbiamo preso qualche sasso, no. Dall'uscita del ristorante siamo andati tranquillissimi, piano piano, poi siamo fermati ai carabinieri. Insomma, abbiamo fatto un chilometro e mezzo, ma ci sono fatto tutti di paletti di barche, che erano cammini, un giorno di coletta, erano un tubo in tindio, di paletti di barche che passavano sotto le luci. Ma se si deve di paletti di barche, dai. Ma io l'ho fatto davvero, non l'ho fatto se no un chilometro e mezzo. Ma ci siamo accorti, il mio fratello si è messo a fare più pietre, ma a voi che abbiamo camminato la roba di pietra, guarda come sono i paletti, cavolo, tutti i paletti non hanno fatto. Voglio comprare a lui. sera ce lo facciamo dire, ma io guardo ci credo a questo Alcheri. Adesso mi ha sentito, non fai che salire, adesso sa che la legge lo sente.